si rifiutava di entrare. Esatto, 2 ore di lag per far entrare Craig. Wow, benvenuti. Episodio... Cazzo, che figura di merda. 61? Possiamo 61. Allora, questa sera, o giorno, o pomeriggio, insomma, in questa puntata, purtroppo Andrea si è trasformato ed è diventato Marco. Per il potere di Grayskull. Ci evolve. Ci avete già sentito in un paio di puntate, direi, credo. E è un mutaforma, Andrea, ultimamente. Esatto. Certo. Non dico cos'è perché non voglio offendere nessuno, né genitori né handicap vari, non offendiamo nessuno, né razze canine. Con me c'è anche Jacopo, e al solito non so chi si aggiungerà a sorpresa, se qualcuno si aggiungerà a sorpresa. In chiamata potrebbe arrivare qualcuno. Speriamo, a casa. Vabbè. No, mi dissocio. Allora, stasera puntata super speciale perché appunto abbiamo un ospite dopo tantissimi anni in cui abbiamo invitato ospiti. Sempre un onore. E tra l'altro Marco si è praticamente imposto dandoci in pasto un trailer. Dandoci in pasto un raietto. Dandoci in pasto. Io mi guadagno questa posizione da ospite. Allora, praticamente Marco qualche giorno fa, settimana fa, non mi ricordo, ha sparato un trailer di un film e l'unica possibile risposta a questo trailer era registriamo. Il film in questione è un film del 2019. Io 2018, a dire il vero. Ah, okay. Tipo 3 date diverse, ma nei titoli di coda mi sembra che la data sia del 2018. Quindi. Sì, perché, allora, leggo adesso che praticamente è stato visto in un festival nel 2017 a Portland, in Oregon, e dopodiché è uscito nel 2018 perché non aveva, credo, un'agenzia, Wild Eye Releasing, che cazzo è, non si chiama agenzia, una distributore. Esatto, una ditta di distribuzione. Un distributore, quindi praticamente ha fatto uscire il film al festival e poi ha firmato contratto nel 2018 col distributore e nel 2019 è arrivato in Nord America. E onestamente non saprei come poterlo vedere negli altri stati se non in modi loschi. E fortunatamente io sono in Stati Uniti e quindi non è vero. Il film in questione ha un regista sconosciuto ed è scritto da questo regista, sceneggiatura, e le star sono sconosciute, però il film è incredibile. Il titolo del film non so se lo metterò nel titolo della puntata perché forse non mi ricordo, avevo in mente una roba, ma forse vabbè. E il titolo del film è appunto The Velocipastor. una roba strana. Come, scusa? Nominato a 11 premi Oscar. Sì. Di quei 10 fasulli e uno li ha comprati su eBay. Esatto. No, in realtà, vabbè, il titolo viene dall'unione di 2 parole, di fatto, perché è quella. Velociraptor, se quella è la specie in esame, perché non è neanche sicuro. Capiamo che negli effetti speciali non siano stati così specifici. Da... Esatto. È un po' una cartapesta generica. E pastor nel senso di preacher, nel senso di prete. Cattolico più che è un vescovo, per così dire. Sì, ma forse no, cioè non è molto chiaro in realtà, perché lui è un pretello del cazzo, non si capisce neanche di che religione, penso cristiana, protestante. No, cristiano assolutamente, c'era un crocefisso ovunque. Vabbè, credo che non sia quello il punto. Il punto centrale della storia. Allora, il produttore, il regista e sceneggiatore è Brendan Steer, che conoscete per altri film, tipo Wonders of Love, A Cat in the Forest, Confession, Monster or the Red Dead e Dead by Dawn. Sono più che altro corti in realtà. E, nel cast, però sarebbe carino andarsi a recuperare, adesso per Andrea gli faccio questo competino. E, nel cast abbiamo Gregory James Cohen, Alyssa Kempsky, Daniel Steer, che sarà parente, immagino, e Aurelio Voltaire Hernandez, che è un cantante, e Yang Ye Cheng, che è l'unico che parlava cinese, probabilmente che il regista conosceva, oppure ha fatto un casting con uno che parlava cinese e l'ha messo dentro. E tu parli mandarino, bene, perfetto, entra dentro. E Jess Turitz, non so, più altra gente a caso, tipo ninja o persone che non vengono nominate né guardate in faccia. Io appare per tipo due scene soltanto, ma citerei almeno quello che fa Frankie Mermaid, perché... Che è, sì, Fernando Pacheco de Castro. Che ha una delle battute più belle che io abbia mai sentito nella storia del cinema, che dopo riprenderò se volete. Sì, sì, beh, è chiaro. Prima due parole su di che cosa parla. La trama è difficile da descrivere. A parole tue, tranquillo. C'è questo prete, Doug Jones, che... un bel giorno assiste all'omicidio dei suoi genitori e, letteralmente, nel senso che sono di fronte a lui mentre... Sala, ma tu hai guardato il file che ha scaricato tu? Scusa, che hai acquistato legalmente tu o quello che ho acquistato legalmente io? Io preferisco gli effetti speciali di quello di Jacopo, sinceramente. Perché nel mio quella scena c'era scritto... Qui sono effetti speciali di una macchina che va a fuoco. Ma è previsto, cioè non credo che esistano davvero quegli effetti speciali. Ok, no, meno male, è geniale. È come quando, tipo, sul finale lui gli stacca la testa, e spoiler, vabbè, sì, per quello che... lui stacca la testa a un cattivo, e la testa è palesemente un manichino, ma non è che lo nascondo, cioè fanno proprio vedere la testa del manichino, e penso sia fatto apposta. Allora, per perdere il discorso va detto, penso che uno dei punti di forza sia il fatto che, sai, quando quell'umorismo da autocoscienza, no? Loro sanno che questo è un film di serie B e ci puntano molto su questa serie cosa. Z, no? Serie B, cazzo. Comunque $35,000 li hanno spesi. Esatto, costa meno di una Ford Focus sto film, cazzo. Vabbè, comunque non ci distraiamo, che poi dopo che ha visto ha assistito all'uccisione dei genitori con una macchina esplosa che non si vede in scena, però vabbè, so. Il concetto è quello. Questo prete Doug Jones decide di viaggiare in Cina, una Cina che non è veramente Cina, ma questo cioè, oddio, è vero, me l'ho scordato. Nel senso, è Cina da un punto di vista della fantasia e della sceneggiatura, da un punto di vista, no, non della sceneggiatura, no, scusa, ai fini del film. Fare la scritta gigante sullo schermo China, quindi vuol dire, non succede così quando viaggia all'estero, non appare. E praticamente assiste alla morte di una ragazza cinese che prima di morire gli passa questo cazzo di dente. Sapete i dentoni, tipo quelli che... Sì, quelli che acquisti al museo quando sei un bambino, che va al museo dei dinosauri, acquisti sto dentone che è di plastica, però vabbè. Quindi ti davano in edicola con la di Agostini. Esattamente, che con scritto sotto dente vero di dinosauro. Assolutamente. È che mentre prende in mano questo dente, che di fatto è un dente di plastica, una roccia, qualcosa che non è il dente, no, non è vero, si taglia con una sorta di rametto, non si sa, e quindi viene infettato da questo, viene contagiato, non lo so, insomma, fatto sta che una volta tornato a casa, quindi dopo non si sa quanto tempo X, quando ha fame, invece che andare a aprire il frigorifero, diventa un velociraptor e esce per strada uccidendo gente. Ora, detta così sembra un film horror, in realtà no, perché lui ha piena coscienza dei suoi poteri e decide di, dopo aver conosciuto una prostituta, perché è importante, decide di usare questi poteri per rimorchiarla. E questa è la trama del film. Sembra sempre, c'è detta così, sembra semplificata, cioè sembra sempliciotta, sai? È vero, cerca anche di salvare il mondo con questo potere. Vabbè. E la setta di ninja cristiani che cercano di salvare la religione, dove la mettiamo? E le domande etiche su cosa vuole Dio, che secondo lui vuole un sacco di gente morta. Sì, la cosa, infatti, però questo, allora, bisogna parlare dei temi separati dalla trama. Allora, i temi affrontati da questo film sono temi molto importanti, perché lui... Allora, se fosse stato uno stronzo qualsiasi essere infettato da un dente, vabbè, ma lui è anche un prete, quindi è importante che si affrontino durante il film tutti questi temi etici di come affrontare questa cosa, se questa cosa la vuole il Dio, la vuole il diavolo, eccetera, tentare esorcismi. E ovviamente è tutto in questo film. E cosa vuol dire farsi salvare una prostituta e parlare con lei, eccetera, eccetera. Che non sa niente di Dio, in effetti. E come lui non sa niente dei dinosauri. Vabbè, sarà per fare una... Che bello. Allora, ultime due robe al volo, poi vi scateno. Questo film non so come sia andato bene o male, di fatto ha una recensione media su Rotten Tomatoes, però come detto è costato poco. E che altro volevo dire? Niente, che adesso vi scateno, così si è parlato anche di un sequel, cosa che non credo succederà mai, però speriamo. Io spero. E basta, dai. Cazzo, 20 film della Marvel, manca un secondo film per Velocipastor. Che mondo di io vedrei bene The Velocipastor 2, tipo qualcosa, un sottotitolo, tipo... Gli ultimi Jedi. Ah, è vero che tra l'altro gli altri... Velocipastor 1 ha un sottotitolo che non avevo notato. The Velocipastor, A Man of the Claw. A man of the cloth, a man of the... Ok. Ho sei parole per te. Dai, ditemi. Io volevo passare alla parola a Marco, ma prima volevo dirti, Marco, se questo film è il terzo in una serie che è cominciata con Game of Thrones, poi è passato a Fast and Furious, e poi c'è questo... Io sto aspettando il prossimo film che ci consiglierai con molto interesse, con molta ansia. Ma forse sarà quello là, La fatta e l'anza del lupo, forse, vedremo. Non Dio, si sa. Comunque è un consiglio di brutto quello. C'è Monica Bellucci anche. Ok, era giusto per dire... Me lo guardo stanotte. Cosa vi vado a trovare? E niente, ho voluto... Ogni tanto io esco fuori, rispunto fuori, a parte... Analizzo sia i classici come Fast and Furious, no? Un capolavoro d'arte moderna, e poi porto questi futuri classici, no? Queste nuove scoperte di questa forma d'arte. E niente, qua avevo preso, siccome io in realtà vi ho fatto vedere il trailer, perché l'ho scoperto anch'io qualche giorno fa, poi il film, a dire il vero, l'ho visto oggi pomeriggio, poco prima di fare questo podcast. Ce l'ho bello fresco nella testa e vorrei fare, come dire, qualche punto al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori. Innanzitutto i miei complimenti ai due protagonisti, che comunque, cioè, loro ci credevano. I due fratelli o lui e lei? È vero. Sono i due fratelli o lui e lei? O il prete? Ci sta, nel senso, per essere questo un film stronzato. Poi mi sono anche informato, cioè, tipo, lei sta... è un'attrice in erba, forse in tutti i sensi. Sta iniziando la sua carriera, questo potrebbe essere... Sai quando apri la pagina di Tom Cruise, Brad Pitt, e trovi tipo le pubblicità in Giappone quello che abbiamo fatto poche puntate fa, abbiamo parlato del corto di Ben Affleck. Esatto, infatti volevo fare proprio l'analogia, questo potrebbe essere l'equivalente del corto di Ben Affleck per questi due attori qua, perché questo potrebbe essere se ne vergogna poi per qualcosa di più grande. Se ne vergogna, ma non deve, perché è una grande interpretazione comunque, cioè, non è... Io penso che a loro sia piaciuto farlo e si vede anche abbastanza nel film. Quindi, detto questo, parliamo delle stronzate, perché, voglio dire, ci sta. Ora, io ho notato almeno due scene in cui, non di sfuggita, ma chiaramente si vedeva l'attrezzatura da riprese nell'inquadratura. Cioè, uno proprio in cui il microfono era entrato completamente. Ma quello... Che poi la domanda è: perché non l'hanno rigirata? Non c'era tempo, Sarla, che domande fai? Poi, cioè, secondo me questi sono il classico esempio, a me piace fare un po' il sentimentale con queste cose, questo secondo me è uno di quei classici esempi che, nel caso in cui, quando uno c'ha la passione per qualcosa, quando uno si diverte a fare qualcosa, cioè, verranno fuori anche delle cagate così, però il punto è che il fatto che vengano fuori, che sia possibile creare cose del genere, per me, cioè, io lo trovo di ispirazione, a me mi si scioglie il cuore quando vedo queste cose qua, perché vuol dire che a un certo punto un tizio una mattina si è svegliato, ha detto voglio fare un film con un prete che si trasforma in dinosauro e uccide dei ninja, comunque ci è riuscito, quindi vuol dire che il mondo fa schifo, ma non così tanto da non poterci regalare queste piccole perle di felicità. Solo questo. Esatto. Ma, sì. Ma lui si è autofinanziato sto film. Questo è interessante. È una buona domanda di cui non ho la minima idea della risposta. Voglio dire, è stato poi anche intervista. Sembra che anche poi cose come tipo Forbes e altre riviste della cosa se ne siano interessate, quindi un po' di scalpore l'ha fatto. Per cui, complimenti a lui. Poi, giusto per continuare con stronzate, oggi non ho potuto fare a meno di segnarmi alcune delle battute che secondo me... Perché queste qua sono cagate, però ogni tanto sputano fuori delle cose che sono assolutamente geniali, secondo me. E queste sono alcune delle battute che mi sono segnato mentre ascoltavo il film, perché insomma, la pena di sentirle. Tradotte un po' in italiano, alla bene e meglio, vi cito. La Cina è veramente a est. La guerra è la guerra. La guerra è un inferno. E l'inferno non cambia mai. Questa è la scena bella del film, forse. Quella scena è spettacolare. Cosa stava facendo quella donna nel bosco? Ma forse cercava di cominciare a fare una famiglia. Cosa c'entrano le droghe con la cristianità? Tutto. Ma io credo che la battuta migliore, purtroppo esce bene solo in inglese, io provo a dirla in italiano, quando la prostituta protagonista si ritrova col suo pappone, e il suo pappone, diciamo, per farle capire chi comanda, le dice: come mi chiamo io? Frankie Mermaid, quindi Frankie Sirena. E perché mi chiamo così? Io nuoto tra le puttane, praticamente... Cos'è? Swimming in Bitches, e io credo che capolavori del genere vadano, come dire, se ne debba far nota di queste cose qua. Perché... Anche la confessione dei Frankie Mermaid è abbastanza incredibile. Vabbè, il film è tutto così, per cui c'è, cioè, davvero, andatevelo a vedere perché sono delle robe incredibili, ma c'è, cioè, la roba più brutta che c'è nel film è tipo quando lui trova la tizia cinese, quella che gli dà il coso, e gli chiede se è ferita, e questa ha una freccia tipo di balista. La prima cosa che fa, si avvicina e fa: sei ferita? No. Beh, non è mai stato in Cina, magari, i cinesi. Oppure anche tipo tutte le morti con le risate, cioè sono incredibili. In cui detta così sembra risate registrate, no? Ci sono i personaggi che ridono ed è bellissimo, però è tipo un minuto di film, no? È bellissimo. Ma a me ha fatto collassare quando c'è il, allora, visto che stiamo parlando di scene, c'è il pappone dentro al confessionale, gli fa: che cosa hai fatto oggi? Ho rubato le caramelle a un bambino e ho gettato il bambino nel fiume. Lì sono morto, mamma mia. Ma tutte le interazioni fra il prete e tipo quando il prete sta vestito da donna e fanno tutto il discorso sull'usare il suo potere per il bene. La prima volta quando il prete dice, quando la prostituta gli rivela di essersi trasformato in un dinosauro e aver ucciso il suo aggressore, e lui dice: no, i dinosauri non esistono. Che poi all'inizio lui sta pensa di averla messo con lei, è incredibile quando ha tutto il senso di, e poi tutto il montage di loro che tipo si allenano a ammazzare le persone, si chiama tipo roba tipo Rocky. Comunque devo dire che il regista ha sperimentato parecchio, se detta così sembra una roba seria, cioè no, vabbè, detta così dopo le vostre cazzate sembra che io lo stia prendendo per il culo più che altro, invece no, cioè per esempio la scena di sesso è una roba sperimentale praticamente. Molto psichedelica, tipo... cioè è peggio della Six of the Kind. Madonna. Comunque no, ma... sì, il film dura 75 minuti, vi fate, guardate, Lighthouse dura 3 ore, vi potete spendere 75 minuti a guardare questo film, perché merita. È un film che mi ricorda molto i film B, cioè serie B degli anni 80, tipo, cioè pieni di 70-80, pieni di vita, non lo so, c'è anche la scena di loro che stanno dormendo e arrivano i ninja e loro si alzano con in mutande e li picchiano, così dal nulla, e alla fine si guardano. Si battono 5, ma quanto è bello, cioè, allora, questo film mi ha messo la gioia in corpo, posso dirlo, cioè, seriamente. Politicamente corretto, perché devo dire che c'è un ninja che è Nigga, per dire, cioè... Ah, della storia, ma va bene. Salla, non l'avevo notato, io non noto queste cose, io non noto il colore della pelle. Ho capito. No, ma cioè, seriamente, no, adesso hai detto pare che hanno preso per il culo, ma io ho notato delle cose, cioè vabbè, a parte che magari vedi appunto effetti speciali mancanti o fatti male, o microfoni in scena, comunque cioè, ho notato cose, questo film ha fatto meglio di Gourmet, ma anche meglio di altri film, cioè in questo film io capisco cosa sta succedendo in 75% del tempo, che sembra poco, ma è meglio di Taken, cioè... Questo capisco... film è girato bene, è semplicemente è un film così cagata che la gente, cioè che no, non è previsto che abbia un pubblico grande, una distribuzione grande, però è girato bene, cioè comunque sono stati bravi, ma anche gli attori, di fatto, cioè niente di eccezionale. Non è quarto ma video. Anche il sonoro, le luci, i colori... Cioè, come è comico, no? Cioè, il tipo di comicità, di umorismo, è vero che un po' si prende per il culo da solo, ma un po' mi fa ridere davvero. Cioè, nel senso, non è solamente, guardate come facciamo schifo, tipo Sharknado, no? Cioè, mi fa proprio ridere. Cioè, non lo so, è strano. Bello. Hai detto bene, secondo me è a quel livello in cui non ridi perché è demenziale, ma e non è così, è quel livello di qualità in cui è buono perché ci sono parti buone, nel senso che non fa ridere perché è demenziale come sono tutti quelli tipo di mostri Sharknado o Octopus versus Shark o quelle cose che recensiva Yotobi. Secondo me c'ha un po' di qualità soprattutto nella scrittura, perché ci sono parti in cui nella sua, come dire, nel suo prendersi in giro sono genuinamente divertenti. Cioè, è carismatico, secondo me, sto film. Non lo so, mi ha lasciato un po' sorpreso. Sala diceva che quando ho fatto il commento su WhatsApp e questo film era bellissimo, ho detto, l'ultima volta che l'hai detto era per Guns Akimbo. Sì, mi aspettavo tipo Guns Akimbo. Però Guns Akimbo è peggio, cioè nel senso non è così carismatico secondo me. Cioè secondo me hai ragione, Guns Akimbo ha una produzione di chissà quanti centinaia di migliaia di dollari, però alla fine c'è, cioè, Tu ci ridi perché più è demenziale, cioè alla fine non è che ci sono, non c'è proprio scrittura intelligente, ti fa ridere perché l'idea di Daniel Radcliffe con le pistole pistonate nelle mani, cioè, è un film bellissimo, però però ecco, cioè, da un film così te lo aspetti, da questo qui è come se lui avesse preso i suoi 35.000 euro e la sua esperienza zero e l'avesse resa al meglio di quello che potesse renderla, quindi ha fatto tutto come voleva e perfettamente, anche se è una cazzata, perché è comunque un film demenziale cazzata, però nel suo essere demenziale vorrei commentare che ci sono alcune battute che secondo me sono state scritte in maniera intelligente, cioè le battute in sé sono stupide ma sono state scritte in maniera intelligente. Sì, esatto, è una distinzione importante. Sì, ma raga, non avete detto niente della colonna sonora, cioè è spettacolare. La colonna sonora è un misto di punk anni 2000, però con le parole fatte apposta per questo film, ed è bellissimo. Veramente? Non ho notato le parole. È perché voi guardate le scene, le vostre cazzatine, però che le canzoni di solito c'erano durante i montaggi, e ci sono dei montaggi in questo film che riguardatelo e ascoltatevi le canzoni. Ma tipo cosa dicono le canzoni? Perché io mi ricordo più o meno cioè come facevano, ma non so, adesso mi sono scordato, però ci sono tipo le cose tipo quella mentre si allenano è tipo una roba mezza roba tipo Dio cosa dice, una cosa così. Dovete riascoltarvi, sono veramente fiche. E, l'altra cosa che... e poi non mi avete citato il fatto che il mandarino si parla, l'inglese si parla, ma il latino no. Cosa? In che senso? Le preghiere, quando dicono le preghiere, fanno gli esorcismi. Ah, oddio, quel mezzo di italiano, spagnolo, latino. Sono bellissime. No, ma per me la scena più bella è Flashback. In America. E com'è? In America si fa la messa in latino? No. Però ho capito, hai preso uno che parla mandarino, ti ci volevano 2 secondi per prendere... Okay. Secondo il film poi tutti comprendono il mandarino a quanto pare in quel film. infatti è bello perché quello, cioè, è stato in Vietnam ma capisce il cinese così dal nulla. Il film, appunto, perché Jacopo l'ha citato ed è importante sottolinearlo, il film è ricco di quella cosa schifosa che fanno tutti i film e le serie TV adesso per allungare la broda, cioè di flashback. È bellissimo. Ora in questo film hanno un utilizzo del tutto nuovo e spiegano cose che non c'entrano quasi nulla. Sono veramente belli. Che poi, cioè, poi non arrivano neanche coordinati con la storia principale. Nel senso, tutto, c'è il personaggio che si ferma e dice: ma io cosa facevo tempo fa con la mia famiglia? Non c'entrava niente in quel momento, ma ok. Posso dire una cosa? Faccio un piccolo spoiler. Questo film ha flashback migliori di Flickering Lights. E il flashback... Come? Che brutto quel film. E il flashback in Vietnam è una cosa spettacolare. Cioè, è anche quello in cui ridono col colpo di scena e tipo la famiglia è bellissimo. Cioè all'inizio è brutto, però poi quando lo riguardi con il colpo di scena finale è incredibile. I colpi di scena sono geniali. Mamma mia. Nelle ultime puntate ho fatto una piccola parentesi sapio sulla fotografia. E so che al pubblico non è piaciuta. Quindi? In realtà... Non so quanto avresti da parlare di fotografia in questo film. In realtà una cosa da dire che è una cosa brutta è che in effetti il regista è una testa di cazzo e vorrei picchiarlo. Lui, il direttore della fotografia, che forse è suo fratello, e non so se neanche se esiste il direttore della fotografia di questo film. Dentro la tuta da dinosauro. Io lo vorrei ammazzare al minuto 1:40. Addirittura, okay. E per altre scene c'è una fottuta lente sporca. Forse no. Non ci credo. Forse è il sensore. Ora puliteli quei cazzo di sensori, pulite quelli, perché si vedono le macchie. Tra l'altro, loro hanno girato tutte le scene insieme, quindi quella cazzo di macchia che poi si moltiplica si vede esattamente come hanno girato il film, cioè quale scena hanno girato prima e quale hanno girato dopo, perché non hanno pulito il sensore che si è sporcato mentre giravano il film, e quindi quella macchia lì sulla sinistra in mezzo si moltiplica poi con una macchia in basso, poi ce n'è una a destra. Vi prego, pulite le lenti. Io impazzisco. Mamma mia, stupendo. Io impazzisco. Tra l'altro, una macchia sulla lente, perché infatti quando mette a fuoco scompare. Le altre sono sul sensore, quindi tutte quelle scene lì che hanno girato dopo, post macchia, diciamo, che sono tutte quelle in Cina, che non è Cina, sarà un parco vicino a casa loro, e hanno tutte quella cazzo di macchia che ovviamente si vede solo quando c'è uno sfondo chiaro, e potrebbe essere il cielo, potrebbe essere tipo l'erba chiara, eccetera, e non si vede quando nei flashback, perché saturano, cioè perché sparano a manetta le luci. Però a me dà un fastidio, vorrei picchiarlo. Vabbè, basta, chiusa parentesi. Vabbè, ma Sala, magari è intenzionale, cioè come quando sì, cazzo, è intenzionale. È come la grana, non ho capito, nella pellicola, capito, quando giri. Riguardatevi quelle scene, che guardate sulla sinistra, c'è una fottuta macchia imbarazzante e io li odio. Vabbè, scusate, volevo. Forse comunque è vero, grazie Marco. Devo dire, cioè, questo film mi ha risollevato, non solo mi ha risollevato la giornata quando l'ho visto, ma mi ha anche cambiato idea sui film brutti, perché dopo aver visto Gourmet, diciamo, abbiamo avuto un momento di crisi. Diciamo che ritorniamo a quello che era Killer Clowns. Esatto, bravo, esatto. C'è roba fatta, cioè, voglio guardarmi quel film, come cazzo si chiama? Quel film con Johnny Depp, che parla di quel regista che è diventato famoso per aver fatto film di merda. Come si chiama? Non ho idea. Dai, che è famosissimo per aver fatto film brutti. Tim Burton. No, cattivo. No. Bono, stai buono, Marco. Sei solo un ospite, non puoi fare queste frecciatine. No, dai, come si chiama? Tipo Ed Woods, può essere? Stai parlando di Johnny Depp? Cioè, allora, Johnny Depp ha fatto... Ah no, Ed Wood, esatto. Questo era un regista, Ed Wood, che faceva film di merda, faceva film bruttissimi, però è diventato famoso perché erano pieni di un po' come questo, cioè di carisma, un po' come questo film, cioè di amore per il cinema. Se non l'avessi già googlato, se non l'avessi già googlato, Marco, il regista è Tim Burton. Strano. No, dici un titolo, quali sono sti film? Ma tipo, un film era una roba tipo dallo qualcosa dallo spazio, aspetta. Cioè, sono titoli che non sono cioè, tipo... Ah, Glenor Glenn è famoso, vabbè, è comunque brutto. Plan 9 from Outer Space è pure famoso, però è comunque brutto. La sposa del mostro pure è famoso. Sono tutti, cioè, famosi, ma per essere brutti, diciamo. Cioè, sono abbastanza... Sai quando vedi nei film i dischi volanti con i cavi, che si vedono i cavi? Che li sostengono, capito? Non è, quello non è Dio che fa volare i dischi volanti. No, è Ed Wood che fa film brutti con effetti speciali brutti, ma carismatici. Ah, se io googlassi movies like Velocipastor, chissà cosa uscirebbe. Il viaggio di Arlo. Il viaggio di Arlo. Con Fiori, ecco, questo film mi ha ricordato Con Fiori per alcune cose. Perché sono... Beh, se ci pensiamo, in effetti c'erano dinosauri, ninja, arti marziali, voglio dire, già parecchie cose in comune. L'unica differenza tra questo e Con Fiori è che Con Fiori ha fatto il lavoro da fichetto di merda, nel senso che e ha un po' nascosto, si è un po' vergognato delle cose brutte che c'erano, tipo gli effetti speciali, e ci ha messo un po' di penombrina. Questo qua non gliene sbatte proprio una sega. Quando non avevano i soldi per mettere effetto speciale, hanno scritto qua ci dovrebbe essere una macchina in fiamme. C'è proprio scritto sul monitor, oppure il tirannosauro è palesemente un costume di carnevale di gomma. Non è che lo fanno sempre all'inizio, magari sembra un po' lo mettono al buio così non si vede bene. No, è in mezzo al parco. Col sole, non gliene frega niente. Che bello. Comunque vorrei, giusto come ultima nota a pie pagina, nella pagina di Wikipedia di Velocipastor c'è proprio scritto Steer è stato influenzato dal regista Guillermo del Toro per il film, quindi per dire, cioè, le ispirazioni a volte. Va bene, allora comunque ho trovato una pagina che poi magari ci studiamo, che si chiama Why Low Budget Horror Will Never Die, e tra cui c'è Velocipastor, come, e ci sono altre cose tipo Killer Sofa. Cosa? Non so cosa. Non guardare troppo, che mo ci sto il quiz. Kicking Zombies for Jesus. Comunque, beh, era un po' che volevo partecipare a un quiz del mio salotto. Sì, qualcuno resuscita Roberta o la lasciamo nel... Roberta comunque adesso la voglio, come si dice, imbarazzare? No, umiliare pubblicamente. Mi ha appena scritto questa domanda, come si chiama il sito? E intendeva Discord, perché per lei è giustamente un sito. Non ce l'hai sta... E io non ho contato quanti episodi abbiamo registrato con Roberta, perché potrebbero essere anche più di 12 o di 20, ma ancora non si ricorda il nome, ma porca puttana, mo quando arriva l'insulto. Non è un sito. Comunque... Non è un sito, però... A volte la realtà è più bella della fantasia. Ho trovato un fotogramma di The Velocipastor, si vede chiaramente che quando deve mangiare un ninja, la mano di un ninja... Aprendo la bocca del tirannosauro di gomma, esce la mano che afferra il braccio del ninja. Cosa? Aspetta, scrivi. Manda il mandalo. Del velociraptor, no? Sai come Alien che c'ha la bocca dentro? Aspetta. È un No, beh, è un braccio questo. Non penso che qui nel podcast. Guardatela, tanto è nel podcast, non posso fare. Io ho appena notato che come si chiama? Nell'icona, nella thumbnail del video su YouTube ci sta il velociraptor, c'ha la giacca di pelle. No, è sempre più bello questo film. Cioè, ogni dettaglio. Ho 6 parole per te. Ma avete notato la citazione? Scusa, Salla, poi mi dici le tue 6 parole. No, era la citazione. Anche quella è una citazione. Ah, ok, anche quella è la citazione. Avete notato la citazione di Spider-Man? In Spider-Man 2 c'è il dialogo fra Peter Parker e suo zio nella macchina, che tutto lo sfondo è bianco, ed è uguale, è lo stesso dialogo. Sì, è bellissimo. Ma questo è una Velocipastor, ha copiato Spider-Man o Spider-Man ha copiato Velocipastor? Ah, è vero. Ha senso. Ma che cazzo? Comunque io aspetto con ansia anche Free Guy. Se possiamo lanciare un'altra frecciatina ai film, tra virgolette, moderni, vorrei anche dire che effettivamente, se ci pensiamo, anche qua vediamo un trope, un cliché un po' che ogni tanto si vede ultimamente nei film, cioè che la ragazza alla fine muore, poi però alla fine sta bene, per cui... Come, scusa? Spoiler è? Che cliché è? È tipo Chewbacca, no? Nell'ultimo Star Wars, che muore, ma poi... Oddio, dopo... Marco, ma basta con questi spoiler! Basta spoilerare, cioè, ma non ti invidiamo più, è incontrollato proprio. No, ma è come Jack, no? In Titanic, che sembra morto. Sì. È come il fatto che alla fine il tiranosauro, il velociraptor muore. Ma forse, forse i velociraptor sono i velociraptor. È la spada degli antenati. Vuoi dire che il velociraptor era tutta una metafora della, di Dio che punisce gli esseri umani? Forse i veri amici sono i velociraptor che abbiamo incontrato lungo la strada. Mm-hmm. Questa è la morale, la morale di questo film. Senti, ma resusciti Roberto? Roberto è arrivato, adesso si aggiunge. Poi facciamo il quiz e poi Marco propone il prossimo film. Sì. No, questa pressione. No, Marco, ormai sei il nostro, come si dice, ogni trailer di film del cazzo che trovo ve lo passo perché esce un altro episodio. Effettivamente no. L'altro, ah, eccola. Ancora sei mutata, Robby, devi accendere il microfono. Comunque sì, Free Guy è Free Guy, guardando anch'io. Aspetto con ansia, dovevo uscire adesso, però esce a Natale, ho visto. Ormai c'è, diciamo, lo stile della comedy di Ryan Reynolds sta arrivando al suo apice, cioè, fra un po' cioè, andrà dritto verso il suolo, forse Free Guy è l'ultimo. E hai visto c'è anche il tuo idolo. Chi? Taika Waititi. Ah sì, ma fa l'attore lì. Ma lui fa cagare come attore, sti cazzi. Beh, oddio, no. Fa Hitler, non fa cagare. No, è vero, Hitler e il tizio di Dark Shadows non sono male. Come? Tutti dovrebbero fare Hitler. Ciao! Ciao. Eccola, ciao Robè. Buonasera. Possibile che dopo 20 podcast che registriamo ancora non ti ricordi come si chiama il sito? No, ma è un problema, perché fino a poco tempo fa non riuscivo ad accedervi dal computer dove usavo il telefono, perché sul computer ce l'avevo tipo scritto su un po'. Ragazzi, io ho problemi di memoria a breve termine. Però visto che non riuscivo dal computer, sono dovuta ricorrere al telefono, anche ho dovuto quindi scaricare l'applicazione da Play Store, cioè è stata una cosa un po' una gravidanza questa cosa, però non mi ricordavo il nome. Ok, intanto ti abbasso il volume perché sul telefono stai sparata a 1000. No, ma sì, non ti preoccupare che poi tanto Craig fa tutto lui. Modula tutto lui. Ok. Ok, visto che l'hai detto due volte già nella chat, hai visto Velocipastor, manchi solo tu all'appello, cosa ne pensi? No, ragazzi, a me mi ha sconvolto quel film. Mi è proprio sconvolto. Ero allucinata, io ho dormito tutta la notte, no? Scusate, non ho un parere cosa? Molto collocato sulla cosa. Ma non l'ho capito, cioè io mi chiedo di spiegarmi col film, perché io non ci ho capito un cazzo. Ho visto solo mostri, preti, è una storia strana. Voglio dire, l'arte non deve comunque farci provare emozioni? Questo film ti ha fatto provare un'emozione? Sì, no, ma infatti è positivo da questo punto di vista, però mi chiedevo se io non fossi scema e non ci avessi capito un cazzo perché sono scema io, o perché non si capisce un cazzo davvero. Scusa, non ci hai dormito, vuol dire che l'hai guardato sto film mentre eri ubriaca o avevi fumato, cioè com'è possibile? No, mi ha un po' infettata. È chiaro questo film, no? È un prete che viene infettato da... Scusa, qual è la tua chiave di lettura, Roberta? Per favore. Ma che cosa hai capito guardando il film? Qual è la morale della storia? Come la morale? C'è una morale? Certo, la morale, cioè. Non lo so, spiegatemela voi. Ah, non lo sappiamo. Qual è la morale per te? Tu che cosa hai? Che cosa è nato in te guardando questo film? Come l'hai compreso, diciamo? Ma io ho capito di sto prete. Che sì. Poi... Bella questa romanza. Sì, esatto. Ho aggiunto un trailer di un film che viene infettato, il distributore di Velocipastor ha appena comprato. Ok. Si chiama Ouija Shark. Ouija. Comunque, Roberta, scusa, dicevi che cosa ti ha lasciato questo film? Ma non mi ha lasciato niente, ragazzi, cioè, io sono molto sincera, non ne ho apprezzato, cioè, sì, vabbè, la storia di sto prete che viene infettato e poi si trasforma in un dinosauro. Ma qual è la morale? Ok. Lo chiedo, io non so di chi sto parlando, però io di solito riesco a farmi un'idea dei film, però, boh, cioè, io l'ho guardato questo e ho detto, ok, beh, una storia anche così. Marco, hai rotto Roberta, ce l'hai fatta. E cosa gli ha troppo sapio in questo caso? Non è per tutti questo è film. Troppo sapio questo film. Forse è troppo sapio, no, ma ci ho pensato, avrei dovuto forse rivederlo una seconda volta in realtà, però... La seconda visione di una chiave di lettura completamente... Non so se qualcuno l'ha visto due volte, forse solo Salla. Ma... No, però comunque è anche geniale, cioè, non so come dire, poi per essere un film del 2017, boh, c'è un montaggio del cazzo, secondo me, però. Attenzione, parole pesanti. Comunque, Marco, non sentivo Roberta così tiltata da Sunspring, te lo dico. No, vabbè, Sunspring, vabbè, ma era un corto quello, dai, quello ci sta. Infatti, complimenti. Come dicevo, l'arte, quella buona, è quella che scatena qualcosa in noi, e questo film penso abbia scatenato qualcosa in Roberta. Sì, no, io questa voce la conosco. Scusate, sono un po' frontalizzata questa sera, quindi dirò tutto quello che penso, anche se stiamo registrando. Io ho sentito questa voce, probabilmente ci siamo già presentati, però adesso io non mi ricordo. Ah, oddio, scusa, c'è Marco in chiamata, scusa, me l'ho dimenticato. C'è Marco Passerini, l'hai già incontrato. A questo punto agli ascoltatori del podcast. Scusa? Marco Passerini. In casa agli ascoltatori del podcast. Indirizzo di casa è 112. Verranno tutto casa. Ripeto, no, allora... Jacopo, hai detto Parco Masserini. Parco Masserini, sì. Io voglio che qualcuno mi aiuti a interpretare questo film, ragazzi, cioè... Ma cosa perché ero molto in difficoltà. Ma che fai? Roberta, devi dirci tu, perché l'interpretazione dell'arte è una cosa personale, devi dirci tu qual è la tua interpretazione di questo film. Non ci pensare, vai a istinto, qual è la prima cosa che ti verrebbe da dire su questo film? Un senso un po' di cioè, proprio di schifo, dall'altro mi sembrava un patchwork di figure. Cioè, senza una trama effettiva. Patchwork di figure, senza trama. Sono offeso. Quello che mi tiene a dire Roberto era che è una rappresentazione della vita, di come nulla è fisiologico e di come effettivamente... Se vogliamo dargli un'interpretazione, possiamo concentrarci sulla tizia, sta prostituta che, come dire, tira fuori i poteri... tira fuori i poteri mistici di questo prete e li fa utilizzare in un certo senso piuttosto che in un altro, verso il bene, se vogliamo. Ecco, questo è un po' il tuo commento è derivativo, non ci siamo, non è l'intenzione dell'autore. Comunque, raga, adesso per allora è un comedy horror action. Quindi palla, fatto... ma dai. Perché dobbiamo ridurre l'arte a queste semplici e futili parole? Dice il genere, l'obiettivo è fare ridere, fare paura, vabbè, questo ci riesce solo con Roberto, ed è un film d'azione, di fatto lo è. Adesso capisco un po' di cose. Ma, cioè, quindi Roberta, aspetta, no, adesso sinceramente, non ti ha fatto ridere? Non ti ha, cioè, lasciato nulla? Ti ha solamente sconvolta per quanto è fatto male? Mi continua a sviare la domanda, Roberta, non ti dà una risposta precisa. No, cioè, a me è un po', ha inquietato. Cioè, un'inquietudine anche un po' carnascialesca a tratti, però... Ma stai mangiando? Ecco, questa è la definizione giusta. È una caricatura di se stesso, cioè un film caricatura del film. Oh, ok, vabbè. Okay. Siamo d'accordo. Sì. Più o meno. Per farmi contento. Ti vuole che il regista prende per culo anche se stesso, cioè non è... Sì. Ok. Perché okay. È male riuscito, è fatto brutto perché è volutamente fatto brutto. Ok, ci siamo. Ok. Bene, mi sono... Sì, anche perché non avevano i soldi per farlo meglio, quindi... Sì, Roberto, sto film è costato come una Ford Focus, $35,000, tipo. Wow. Meno di una Ford Focus, o forse di più, non lo so, non so quanto costa una Ford Focus. Quindi posso fare anch'io un film. Un film, sì, un film 35.000 euro questo. Dollari. Dollari, scusa. Scusa Marco, volevi... No, no, penso che siamo riusciti a estrarre tutto quello che c'era da estrarre da questo film. Tutto l'estraibile. Potremmo filosofeggiare ancora un po', ma penso che... Ah sì, potremmo fare un episodio da due ore su sto film, c'è troppo da dire. Come dicevo, penso che l'interpretazione dell'arte sia una cosa personale, quindi dovete essere voi, ascoltatori, a guardare questo film e poi farci sapere qual è la vostra lettura, qual è il messaggio che trasmette a voi personalmente. Un messaggio... Tra l'altro, questo poi è un... Le prostitute tirano sempre meglio il fuori di te. Ha chiuso la pezzone di questa puntata. Che bello, che bello. Comunque, mentre stavate interrogando, ho linkato un trailer che potrebbe essere interessante. Marco, faccio un pensierino. Quello che dicevo è che la casa chi ha gestito la distribuzione di questo film, The Velocipastor, ha acquistato anche un altro film che si chiama Ouija Shark. Ouija, come il rito voodoo. Adesso non mi viene più neanche a me, era la Ouija board, sai quella dove metti... Ouija. Quello che serve a comunicare con gli spiriti, no? Esatto, che apparentemente è un horror ed è già uscito. E la trama sarebbe un gruppo di ragazze evoca un antico squalo mangia uomini e dopo aver fatto casino appunto sulla Wicca, la tavola di evocazioni con l'acqua di mare. E basta, questo è. E quindi direi che è interessante. Questo quanti Oscar ha vinto? Questo è appena uscito, adesso prossimo anno, 2021, vincerà un paio di Oscar. Sicuro. Comunque è uscito, pensateci, è interessante per fare un episodio sopra, basta. Magari Andrea. Se Sal è d'accordo, io ora farei il quiz. Sì, quizzalo. Se Roberta o Marco rispondono correttamente, fanno punti per gli ospiti. Se nessuno risponde correttamente, il punto va a Andrea. No, che ne no. Pensi? E perché va Andrea se nessuno corrisponde? Va bene, allora non va nessuno. Come la pensi? Nulla contro Andrea, ma non ho capito il No, no, va bene, volevo fare un regalo a Andrea, ma... No, ma perché non c'è Andrea? No. E è già tanto che non invochiamo la furia del Velociraptor. Molto bello, si è accorta però perché sta tanto... È vero, è indicativo. No, pensavo che stesse in silenzio e che magari avesse già espresso il suo parere per quello. Sì, si fosse suscitata. No, no, se avesse visto questo film Andrea non sarebbe stato zitto mai. Sarebbe parlato tutto il tempo. Purtroppo sì, Andrea l'unica puntata in cui poteva piacergli il film ha deciso di non partecipare. Quindi... Ed è che non ha sentito la parola del Signore in questo caso. Esatto, bravo Marco. Ok. Ok, primo gruppo. Allora, Roberta, non so se hai sentito gli altri, però praticamente sono quattro opzioni, sono quattro titoli di film. Mm-hmm. Uno di questi quattro film l'ho inventato io o okay. L'ho generato con un generatore casuale dei titoli. Okay. Prima dirò il titolo in inglese e poi lo dirò in italiano. Ok, gruppo 1. Opzione A. I'm a cyborg, but that's okay. Sono un cyborg, ma va bene. Mm-hmm. Seconda opzione B, The American Poop Movie, film di poopoo americano, film di cacca americano. Opzione 3 e C, I'm a peanut bar and I'm here to collect, sono una barra d'arachidi e sono qui per riscuotere. Opzione D, Rabid Grannis, nonne rabbiose. Secondo me hai inventato tu il primo. Valide alternative, delle valide opzioni. Roberta ha scelto il primo già, mi sa. Mm-hmm, sì. Io penso che andrò sul terzo, sono una barra di noccioline, sono qui per... Ma visto che l'ha detto Andrea, devo dire il secondo. Come l'ha detto Andrea? L'ha detto Marco che è Andrea. Ho detto Marco che è Andrea? Ok. No, penso di rivestire... Non ho capito. Ah, Marco è Andrea, ok. Ha vinto Marco, quindi i punti vanno a Andrea. No, i punti vanno agli ospiti. I punti vanno agli ospiti, vabbè. Sì, quello l'ho scritto io perché ho visto l'episodio di Community. Come? Ha un accento, Andrea, posso provare a fare... Hello, sono Andrea. Cosa? Volevo Andrea dire... russo. Reale, ma... Andiamo okay. Andrea non parla, quindi la dà accenti. Ok, ok, vabbè. Okay, vabbè. Secondo gruppo, opzione A. Spit shining my wife, quindi lucidando mia moglie con lo sputo. Opzione B, Black Snake Moan, quindi come si chiama quel mugito? No? Esatto, gemito del serpente nero. Opzione 3, C, oh dead, poor dead, mamma sang you in the closet and I'm feeling so sad. Questo è un sequel del film di Ben Affleck. Oh papà, povero papà, mamma ti ha appeso ti ha appeso nel guardaroba, come si dice? Nello sgabuzzino e mi sento così triste. Opzione D, when women had tails, quando le donne avevano le code. Che bella la... Inizia Marco stavolta. Secondo me la quarta è un film sapio. Quello sono convinto anch'io, quindi penso che andrò con la seconda, con il Black Snake del serpente nero. Ok, ora tocca a Nassalla. Anche io volevo dire la seconda, visto che ha detto Marco di... La prima? Sì. Ok, Roberta? La seconda. Non dovete dire cose diverse, però, non sentitevi obbligati. Io sì, è per contratto. Roberta è indecisa. No, per me è la seconda, o devo dire una cosa diversa, non ho capito. Oh, oddio, no, scusa, non l'ho sentito, no, scusa. No, seconda, sì. Ok, quindi ha vinto Salla perché era la prima, quella che ho fatto io. Devo vedere il punto del serpente nero adesso. Io devo vedere quando le donne avevano le code. Però vabbè. È un gruppo 3. Ho dato quello dei cavalli. Vabbè. Quello dei cavalli, è vero. Vabbè. Terzo gruppo. I was undead, but then it got worse. Ero non morto, ma poi sono peggiorato. Opzione B. Questa è lunghetta, aspettate un attimo. Night of the day, of the dawn, of the sun, of the bride, of the return, of the revenge, of the terror, of the attack, of the evil, mutant, hellbound, flesh-eating, subhumanoid, zombified, living dead, part 3. Non posso tradurre l'italiano. Notte del giorno, dell'alba, del figlio, della moglie, del ritorno, della vendetta. Questo ve lo posto. Generare queste cose, quindi lo escluderei a priori. È bellissimo questo titolo. Opzione C. It's better to be wanted for murder than not to be wanted at all. È meglio essere voluti per ricercati per omicidio che non essere ricercati affatto. Opzione D. Why should I buy a bed when all that I want is sleep? Perché dovrei comprare un letto quando tutto quello che voglio è dormire? Prego, Salla. La prima. Me la puoi rileggere la prima, per favore? I was undead, but then it got worse. È difficile. Io dico la quarta. Ok. Roberta? Difficile. Scusami, la penultima com'era? È meglio essere ricercati per omicidio che non essere cercati affatto. Bellissimo. Che bello questo titolo. Potrebbe essere, sì. Dai, la prima anch'io. E Marco e Roberta ci hanno azzeccato. No, aspetta, scusa. Sala e Roberta, scusa. Sala e Roberta, ci ho provato. Allora, Sala e Roberta più ospiti siamo due pari, giusto? Sì, tecnicamente sì. Loro prendono 200 punti più a me, comunque sì. Ok. Chiaro. Ultimo gruppo. questo è l'ultimo gruppo per sempre, finché non mi ci rimetterò fra due anni a fare sta cazzata. Comunque, scusate solo un secondo, in Black Snake Moon ci sono Samuel L. Jackson e Christina Ricci, giusto? Attenzione, beva visto allora. No, vai a cercare quell'altro, quello lunghissimo, Marco. Allora dopo te lo copio in collo, te lo mando. Ultimo gruppo, dai. Ultimo gruppo. Opzione A. Killer Tomatoes Eat France. Pomodori assassini mangiano la Francia. Devo sperare che sia vero questo. Opzione B. Things to do in Denver when you're dead. Cose da fare a Denver quando sei morto. Opzione C. Surf Nazis must die. Quindi nazi surfisti devono morire. Opzione D. This is Vancouver, right? Questo è Vancouver, giusto? Ok. Cacchio. E qui vi voglio, cazzo. Ah, non mi fa postare il titolo, vabbè. Vabbè, ce l'ho. Night of the Day. Per me la prima. The sun of... Tocca a Roberta comunque a dire per prima. Capito? Te. Roberta? La prima. Pronto? Pronto? Mi senti? Sì, adesso sì. No. La prima. La prima, ok. Marco? Io vado per cose da fare a Denver quando sei morto. Ok, Salla? Qual era quello? Cosa quello? I titoli. Mi dici la seconda. Cose da fare a Denver quando sei morto. La terza allora qual è? Surf Nazis must die. Cazzo, spero davvero che sia vero quello. La terza. E nessuno ci ha azzeccato perché era l'ultima. Oh. Perché tutti i film sono girati a Vancouver. Ok, quindi siete due pari, vado ad aggiornare la classifica. L'ultima era molto interessante. Questa... Comunque ha una sola recensione e dice It's so funny. È un film del 2005, è sentito part 3, quindi cosa vuol dire? Ci sono delle altre parti? Non mi servo io per trovare i film da recensire, cioè, basta guardare i vecchi giochi di Jacopo. Cioè. Come, scusa? Purtroppo abbiamo deciso che non possiamo usare questi titoli perché sennò Andrea mi ha... Se no Andrea muore, esatto. Cato. Io l'avrei messo Veloci Pastor in uno dei giochi della puntata precedente. È nella lista tra i titoli più lunghi della storia questo qua. Vuol dire che c'è qualcuno di più lungo di questo? Sì, allora la metà di questa lista è coperta da il resto delle parti di questo film. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Poi c'è I Kill My Lesbian Wife, che è un altro. Ovviamente. Borat, il Dottor Strano Amore, veramente lungo. E poi basta. Scusa, ma qual era il titolo completo di Borat? In italiano è Borat, studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. Ah, giusto? È vero. Come ho fatto a dimenticarmela? Perfetto, signori. Quindi io penso che sia stato anche stasera. Ho fatto scrivere qualcosa di nuovo a voi e spero anche ai nostri ascoltatori. Sì, grazie. Roberta ha scoperto qualcosa di nuovo su se stessa. E su Marco. Su Marco. Non viene più. Alla prossima puntata di un altro film che vi farò scoprire, sì. Oppure... Potete ascoltare Parco Masserini su Facebook, su Instagram, oppure anche su un altro podcast che si chiama, scusami, quello con il logo bello, com'è? Sul focolare elettrico. Ancora le nostre soavi voci, potete trovarci sul nostro podcast di videogiochi e game design chiamato Il Focolare Elettrico, dove io, che sono Marco, e... Qui non puoi, non lo dico, non hai potere su di me. Non hai potere, non si dirà sta roba. Dopo parliamo di filosofeggiamo su videogiochi anche per puntate che durano anche troppo. Sì, hai parlato male. Prima male di Salla che non ama Kojima. Madonna, tre volte, va bene, basta così. Questo non è quel giorno, niente. Dai, grazie di averci seguito, grazie a Marco, grazie a Roberto, a Jacopo. Ci sentiamo sulla puntata sui Tremors, se mai la farete. Assolutamente. Calls 2. A settimana prossima. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.